come me. Io ho visto un di passare, tu stavi stretto a me, ma il volto ti arrossì, sentendoti guardare, tu non vedesti in me che un'ombra della via, ma mi piacesti tu, negli occhi ti guardai, ed ora senza me, io visto ritornare, non devi piangere più, se lei ti vuol lasciare. Su, vieni qui, Milord, accanto a me, Milord, se hai freddo il cuore vedrai, io ti riscaldo. Non domandare a me perché ti voglio, ti posso consolare se dici solo un sì e non pensare no a chi ti fa soffrire. Ti posso ben capire, gentil contessa, se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché d'amore mai nessuno morirà. Tempi in assoluto, Milva mostra a Bologna, esposizione e ovviamente presentata in approfondimento nella rubrica in mostra grazie a un comitato tecnico scientifico di cui siamo riusciti a intercettare le due voci della professoressa Anna Maria Lorusso e del professor Lucio Spaziante, perché questa grandissima artista abbia divulgazione e contenuti non solo fotografici al Museo Internazionale della Musica e Biblioteca della Musica a Bologna. La nostra conversazione procede, come ho detto, una grande importanza nel teatro e per quella che è l'interpretazione, questo brano che è di una bellezza struggente, ogni volta mi trema la voce che l'ascolto. L'ho portato anche come brano del Buongiorno in Musica Italiana, selezionato per il Breakfast Club del venerdì, come ben sapete l'apertura è in Musica Italiana e quindi

è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre quello uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori con noi a cantar bandiera rossa, bandiera rossa. Il 7 luglio 1960, nel corso di una manifestazione sindacale, 5 operai reggiani furono uccisi dalla polizia, il più giovane, 19 anni. Milva, i morti di Reggio Emilia. Chiude così la nostra rubrica intensa e in mostra due grandi protagonisti, Rubens nella prima parte, a Mantova in seguito sarà, ed è già aperta, Galleria Borghese a Roma, a Bologna con Milva, la pantera di Goro, Milva la rossa. In chiusura ricordo che domani andremo in scena con triplice appuntamento, uno dedicato alle esposizioni e sarà nel last minute, a breve avremo conferenza stampa, insomma, ma domani ne porterò i contenuti. Seguiranno due incontri a teatro, uno a San Giovanni e l'altro con Agorà. Io vi saluto, vi auguro un buon ascolto e una buona giornata. Vi lascio con l'Edipo Enciclopedico dopo la pubblicità. Liberi Dentro anticiperà la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Quindi oggi il grande rock di Angela Zocco e Andrea Gozza. Domani alle ore 7 puntualissimi per la prima colazione in diretta. Vigilia di weekend. Domani è primo giorno di dicembre con il Breakfast Club, mi raccomando, puntuali, non manco mandarvi un caloroso abbraccio a tutte e a tutti dal vostro William Piana. Ciao.